su di noi le nostre catene. Louisiana, resti ad aspettare e arriva il momento di cavalcare il fulmine. Tabacco, poi il mio trono esploderà. Apritevi finestre, suonate i campane, il mostro nero è elettrico. Imperfette, niente vuol cambiare, ma tutto brucia già, bruciano i deserti dell'umana.